sai che mi coprirà di fango e polvere. Cuore che batte senza pietà, già lo so, si rivestirà di ferro e ruggine. Sa se poi tu mi ricorderai. Volo leggero senza meta e cadrò tra le braccia di chi non ho visto mai. Eppure è semplice architettare le favole, sognando finali impossibili. Ma di tutto questo tu, che arriverà, ma lo so che non passerà la febbre che ho di te. Baci rubati di chi non sa che cos'è che mi porta qui, se poi non so scordarti mai. Ai, ai, ai. Si rimetterà le stesse maschere. Ciò che rimane, quel che sarà, suonerò solamente la malinconia della tua essenza. Eppure è semplice architettare le favole, sognando finali impossibili. Ma di tutto questo, sapranno più. Com'era semplice architettare le favole, sognando finali impossibili. Ma di tutto questo tu che ne sai, tu che ne sai. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite Andrea della formazione veronese di Quinta Stanza. Con voi e con lui ascolteremo sei brani del CD Meravigliosamente Male, come il primo che è andato in onda. Titolo? Il titolo è Tu che ne sai, ed è anche il primo brano dell'album. La vostra esperienza durante la registrazione, quali idee musicali che hanno dato vita a questo CD? Guarda, noi quando creiamo le canzoni partiamo sempre da una sorta di jam session, no? Quindi uno inizia... Improvvisate, ecco. Sì, improvvisiamo. E nel momento in cui si crea quel groove giusto, quel sound che coinvolge tutti quanti, cerchiamo poi di creare quel qualcosa che dà vita alla canzone, insomma. Quindi in genere parto prima la musica e poi le parole, ma non è detto, può essere anche l'opposto, ma raramente. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. La prossima canzone ha per titolo Non hai parole. Non sai quello che vuoi e vuoi. tende a soddisfare la tua integrità. Ma il cane del rimorso, fedele sempre ti sarà. Non c'è niente che paghi ciò che perdi, non perdonerà. E non hai parole, non sai quello che vuoi, e vuoi ciò che non sai, ma io ci gioco il cuore, stavolta vengo fuori, adesso dimmi tu che ascoltami, ti prego. Se vuoi, poi dopo te ne andrai. Se vuoi, perdonami lo sfogo. È l'ultimo che sentirai. Vado via, ti lascio una canzone. In studio ancora con Andrea di Quinta Stanza, capitolo recensioni musicali, quelle le più lusinghiere, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato messo in evidenza? Niente, nel senso che noi non abbiamo mai chiesto recensioni musicali perché per scelta, nel senso che nel momento in cui tu chiedi una recensione sei sempre un po' vincolato, no? Diciamo che l'altro dice sì vabbè ti faccio la recensione, ma poi comunque è un po' costretto a scriverti delle cose positive, no? Quindi noi non l'abbiamo mai chiesto, se qualcuno ce la vuol fare, siamo qua. O magari qualche impressione dei vostri amici, insomma, che hanno ascoltato. Beh, quelle sì tanto, ma è chiaro che anche lì sono voci di parte, quindi non abbiamo mai avuto una voce negativa in questo senso. Quindi da questo punto di vista, insomma, siamo contenti. Prossima canzone. La prossima canzone si intitola Gioco Inutile. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con Andrea di Quinta Stanza. Rimanete ancora su Radio RCS. All'improvviso arrivi tu con aria complice e mi trascini come un'onda in questo vortice di frasi fra parentesi, quadrate, rotonde, giri di parole in questo spesso nesso tra l'amore e il compromesso. Cosa te ne fai tu di me? Non sai. Cosa te ne fai tu di me? Ti dico cosa te ne fai di me? Quel che tu vuoi, fai di me un abbaglio. Brucio il tempo qui perché tutto questo gioco è inutile. Capisco, non ti seguo, parla semplice, ma tu continui inutilmente in questo vortice di frasi fra parentesi, quadrate, rotonde, giri di parole senza dubbio, domande. Mm-hmm.